forse non sai neanche tu la verità, forse non hai la mia sensibilità, ma la cosa più importante che non riesco a capire è cosa sia successo, perché è andata a finire così. Tutta l'amicizia è svanita in un niente da un giorno all'altro. Hai cambiato personalità, perdere un amico non è mai stato facile, ma meglio così, ormai trovo la diversità. Questo l'hai voluto tu, tu stai bene con quelli come te, ma questo l'hai voluto tu, nessuno sopporta il tuo modo di essere. Ora che passa il tempo, vengo fuori la verità, riesco a rivedere i tuoi picchi atteggiamenti, riesco a capire l'opportunismo e le falsità, riesco a capire cos'è che tra noi due non va, ma questo l'hai voluto tu, tu stai bene con quelli come te, ma questo l'hai voluto tu, nessuno sopporta il tuo modo di essere. La tua faccia di merda non riesco a cancellarla, forse siamo due poli opposti che si respingono, forse tra noi due tu sei quello di troppo, ma questo l'hai voluto tu, nessuno sopporta con quelli come te, ma questo l'hai voluto tu, nessuno sopporta il tuo modo di essere. Ok, siamo arrivati alla fine. Mezzanotte 8, abbiamo sforato di 8 minuti, scusate signori dell'organizzazione, non arrabbiatevi, teoricamente siamo alla fine. Abbiamo finito? Boh, abbiamo finito. Sentiamo Capellona, abbiamo finito? Abbiamo finito, ce l'andiamo? Ok. Adesso voglio un'alzata di mano. Bruno, che lui, che tra parentesi ha il pisello molto lungo, vuole ancora suonare. Wanci, che è già sparito, evidentemente non vuole più suonare. Io, per me. Quindi, boh, non lo so, vaffanculo. Ha detto che ha la febbre, basta, quindi vi regalo un pacchetto, non lo facciamo più, vi regalo, non l'abbiamo neanche provata, vi regalo un saluto, vi regalo un pacchetto di crackers milanesi e divertitevi. Ah, volevo solo dire una cosa, che noi questo concerto l'abbiamo registrato e se sarà decente faremo un CD. Perché questo è il nostro ultimo concerto, quindi non ci vedrete più né a Pinerolo né da altre parti, buon per voi, buon per noi più o meno comunque.